15. Ma comunque, proviamo già andare a scendere, pazienza, devo ti dire. perché non ti prego, è un telefonino di servizio. C'è il mio che c'ha problemi, capito, per qua. Guarda, non t'attacca, che cazzo, la batteria è troppo grossa, c'ho mai bisattini. Ma l'ho portato così a provarla, a vedere in giro come funziona. Poi già funziona, vabbè, ma non uso quello, quello l'ho messo a posto per fare la collezione, dai. Io c'ho anche l'8007. Adesso vediamo, secondo voi mai prendo quello di Natalino. Cosa è quello di Natalino? Motorola, quello fine. Ah, quello là che c'ho l'altra volta. E già è bello anche quello. Un quantità di euro, Puglia. Adesso può pigliare, eh? Attualmente c'è ancora, 99 l'ho visto. Sì, no, è tu. Cazzo no, già vecchia. Ma l'ho visto proprio da 1 euro, 99. Sì, comunque avete tentato di aprire questo corso, eh? Cioè, tutte le viti mangiate. O no, Pierpa? C'era anche lui, mi stava dicendo una cosa, ripeti? Aspetta, che avete tentato di aprirlo? Noi no. Che avanti, buonasera, buongiorno, chi è? Negativo, bilancio sono una bellezza di 90 amici che non lo sento. Comunque ciao cavalli, salutoni, saluto anche a Carlo se c'è, se mi sente. Bene, mi senti? Negativo, non lo sento, eh. Cosa cambia, allora, non lo ascolto io qua. Comunque saluto Risano se mi ascolti, dai. Negativo, ti ho sentito per un passaggio, ma poi sei sparito, eh. Comunque saluto, buona domenica. Accetto, alla prossima, ciao ciao. Positivo, dai, ok. Facciamo buona domenica anche a te, ciao. Prova un po'. Sì? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova a fare il bianco, smetti la portata col bianco. Sai più sotto mano quel rumore, la schia cosa è rimasta verde? Sì, sì, no, va bene. No, è staccato dalla corrente, hai capito? Adesso le schie tutte e due rosse sono o verde una? Tutte e due rosse. È già carico. Sì, tu, adesso lo proviamo a tenere acceso un po' e vediamo cosa succede, eh? Ma tu bene mi senti? Vai! Antonio sono, bene mi senti? Sì, ti sento bene. Allora va bene. Qualcosa, ciao, 7 ampere, però non lo so, ci scarica molto facilmente, cioè ti dà il senso di scarico. Ovviamente non deve essere così, vediamo un po' se è la spia che dice falso. Adesso teniamo un po', poi vediamo, eh. Non è la suoneria, tu? Sei io, sta funzionando bene, eh. Ho fatto una pulitina, non la sai, ma... Alto. Crescente. Adesso già sta funzionando, eh. Basso, silenzioso. Sta funzionando bene adesso. Ehi, già funziona bene già. Pronto, cosa sono queste che c'è, so, che c'è sopra, vicino a dove ascolti? C'è scritto MMS, poi c'è Medi Illunga. Questo lo dico io, quando ho sentito MMS vai direttamente a fare gli MMS. L'altro va una specie di compositore, puoi comporre da quei brani che ci sono e puoi fare a tuo piacimento, capito? Ah, cappa. Per cambiare le cose, come si cambia? Per cambiare che cosa? Lo sfondo. Ma cerchi gli sfondi, vai a... Mi sembra, se non ricordo bene, fotografie lì, una cosa del genere. E cerchi gli sfondi. Io la sto cambiando, allora. La sto cambiando. Però ecco ti sfondo buono. Quindi, esce a vedere, Singer. Vediamo un po'. No, questo no. Ehi, è già un po' che l'ho messo a posto, non assai. Io di sfondo c'è un delfino, ma c'è quel delfino. Ma che regalo qui so pure. Ma buon Natale. Deserto, tutto qua. Adesso gli ho canna, va. Christmas. Buon Natale. Non so se è stato tolto, c'era anche... Nel Green Server c'era anche... Proprio a schermo, in pratica, c'era Babbo Natale che ci muoveva in mezzo alla neve. Ma rimango a caso e via, va. Cioè, siamo me comunque. No. Sto qua, no? Numero 8. La so cos'è, te, Pamone? Adesso ti butto un po' di CRC, ti porto io, ti ripiglia, eh. Scusate, c'è sporcizia dentro, no? Cioè, come si sporca il telefonino. Adesso vediamo un po'. Prova. Non lo so. Io non lo potevo vedere quello. Come avete tentato di aprirlo, sicuramente. Sono le viti tutte spanate. Ma noi no. Chiamato? È tutto Dragon Ball in oggi. Chiamato? Sono negativo, non abbiamo chiamato. Ma ti piacciono i nomadi? Già me la futti, ma... Eccolo qua, su Pierpa. Screen server, riesci a vedere? Ma che guarda. Ce ne sono un bel comunque. Il delfino non c'è più che saltava dall'acqua. Sì che c'è? Questo dovrebbe essere uno squalo con la bocca aperta, o no? Sì, c'è. E adesso vediamo un po'. Tante funzioni. È un po' così, comando vocali, chiamata vocale, sicurezza, rete, imposta ora e data. Allora, la cambiamo, aspetta. Nel salva schermo c'era anche il gattino che parlava italiano, è stanco, diceva, facendo l'impressione che diceva non grava su Bruzzo. Non c'è più? No. C'era nel salva schermo c'era, poi magari guarda sul trucco. Hola. Chi è che dice hola? Me. Hola? Eia, cappa! Oh, va tu! Torio! Mi? Cosa sono? Pure frequenza così? No, va bene! Adesso? Va bene lo stesso! Poi? Va bene lo stesso da me! Sono pure frequenza, lo sai! Frequenza, perché? Perché sono pure frequenza! Sento bene, infatti! Ma Luca sicuramente no. Ma che cosa per fa? Non sono fuori frequenza. Negativo, fai. Cazzo, sono 27 e 080. Oh, mi sento bene sempre. Faccio una cosettina. Aspetta che faccio una cosettina. Cosa devi fare? Devo cambiare una bombola. Che bombola di domenica c'è la bombole tu. Ai, dice ancora. Va bene, aiuto che è pronto a manicare, vabbè, ci sentiamo più tardi, là. La sveglia, no, come ti cazzo ce ne buca? Devi andare alla sveglia, voglio andare, c'è cosa alla sveglia. Fuso orario, ora legale, imposta ora, tipo d'orologio, imposta adatta, fuso orario, vieni cazzo. Ok, ci sentiamo dopo, là, che vado a mangiare, ok. Ehi, a ciò per fa. Ciao, non è lì. Ehi, a ciao, auguroni, auguroni. Grazie, tu è lì. Sento, Lugariello, Lugariello, se mi ascolti, che Dio. Hola, qui hermano, da Spagna, hola. Qui hermano de España, tres compras.